giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Minori non accompagnati a Tor Viscosa, i ragazzi sono entrati nella struttura ma ci sono ancora incertezze sulle autorizzazioni. Scelte non condivisibili nell'azienda sanitaria Giuliano Isontina. A Trieste i sindacati chiedono certezze sul personale. 31.000 le famiglie campioni, residenti in 68 comuni del Friuli Venezia Giulia, coinvolte nel nuovo censimento al via oggi. Dal barocco al Novecento, i violoncellisti dei Berliner Philharmoniker incantano Gorizia con una tecnica straordinaria. Infortuni e ansia, primi avversari dei bianconeri, secondo l'allenatore Sottil, venerdì sera a Empoli, il bivio di stagione. Basket, buona la prima per l'APU Udine, che batte Nardò all'esordio di campionato. Mercoledì sera tocca Trieste. 12:31, buongiorno da Daniele Letti, Geri Tamicoli. In apertura torniamo a parlare di minori stranieri non accompagnati e della loro accoglienza sul territorio. Siamo tornati a Tor Viscosa, dove si è da poco insediata la cooperativa Edis, in una struttura che secondo l'amministrazione non avrebbe tuttavia tutti i titoli per operare. Mancherebbe l'autorizzazione all'esercizio della nuova comunità per minori non accompagnati a Tor Viscosa, ma nel frattempo i ragazzi sono già dentro l'edificio. Il trasloco da Udine, dalla contestata struttura di Viale 23 Marzo, a fine della scorsa settimana. Enrico Monticolo, sindaco di Tor Viscosa. Il giorno 29 settembre ho fatto un sopralluogo con il vigile, ho constatato la presenza di 13 minori non accompagnati. Abbiamo scannerizzato tutti i permessi di soggiorno. A breve manderemo una PEC alla cooperativa Edis, dove richiederemo questa autorizzazione al servizio entro 3 giorni, dopodiché vediamo tutto l'iter burocratico da fare. A Edis, la cooperativa in questione, ritiene si tratti di un subentro e che tutte le carte siano in regola, ma non rilascia commenti. Nello stabile di proprietà di un privato, lontano dal centro abitato, c'era prima un'altra comunità per minori che ha da poco traslocato a Cervignano. Alla direzione regionale di competenza non risultano nuove richieste per l'avvio di comunità. In base al nuovo regolamento regionale, per ottenere l'autorizzazione ci vuole prima l'ok dell'azienda sanitaria, poi quello dei servizi sociali, che devono valutare il progetto educativo. Acquisiti questi due pareri, il comune può dare il via libera all'esercizio. A Tor Viscosa l'opposizione ha presentato un'interrogazione al sindaco, dicendosi fortemente preoccupata che gestire la realtà sia la stessa cooperativa che a Udine si è dimostrata in seria difficoltà a guidare questi ragazzi. Una situazione complessa, essendoci dei minori di mezzo da tutelare, affidati ad Aedis da altri comuni anche fuori regione. Intanto, indicano alcune fonti, nel settore della cooperazione c'è preoccupazione per il comportamento tenuto dai dirigenti della cooperativa di Pasean di Prato. Tor Viscosa, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Manifestazione di protesta questa mattina in Piazza Unità a Trieste dei dipendenti dell'azienda sanitaria Giuliano Isontina. I sindacati, hanno scritto in una nota, denunciano la paralisi organizzativa dell'azienda. Sentiamo. Se non sai gestire scateni le nostre ire, così protestano sotto il palazzo della prefettura contro la dirigenza dell'azienda sanitaria Triestina Sugi i sindacati del comparto sanitario CGL, CISL e FIALS. La dirigente infermieristica di Trieste, una persona che di fatto coordina oltre 3.000 persone tra infermieri, ossi e tecnici di laboratorio, è stata invitata, dicono i sindacati, ad andare in pensione dall'oggi al domani. La quiescenza scatterà il 31 dicembre, ma ora deve consumare tutte le ferie arretrate. Il timore è che non venga garantita una sostituzione immediata e che il comparto finisca accorpato con l'area Isontina sotto un'unica coordinatrice infermieristica. È questo quello che ci raccontano i sindacati, che sono ancora all'interno della prefettura, hanno un incontro con il prefetto per chiarire la situazione. L'altra questione, ci spiegano, riguarda il centinaio di persone, infermieri o tecnici di laboratorio, che hanno svolto ruoli di responsabilità come facenti funzioni per anni e sui quali non ci sia una garanzia di mantenimento di carriera. I ruoli rischiano di essere messi a concorso, le persone che finora si sono spese non hanno la certezza che venga loro riconosciuto gli anni di impegno. Abbiamo chiesto una replica ad Asugi, che risponde: i processi alle intenzioni non sono contemplati nel nostro ordinamento. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Sistema salute protagonista questa mattina anche in consiglio regionale. 3 le mozioni presentate, dall'autonomia sanitaria agli specializzandi all'oblio oncologico. La regione si impegna a trovare una soluzione ai cosiddetti esodati del bonus 110% e migliorare così la circolarità dei crediti fiscali. Ad annunciarlo l'assessore alle finanze Barbara Zilli nel momento dedicato alle interrogazioni in consiglio regionale. Zilli ha ricordato come la regione aveva fatto passare una legge durante la scorsa legislatura che prevedeva l'utilizzo delle partecipate della regione stessa, norma che però era stata di fatto bloccata da un decreto legge del governo che faceva divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di essere cessionari dei crediti d'imposta derivanti dall'esercitazione dell'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali dei contribuenti che avevano sostenuto spese per le ristrutturazioni. L'amministrazione ha tenuto un incontro con riscontro favorevole al Ministero dell'Economia. Nei giorni scorsi sono stati convocati in uno specifico tavolo sull'argomento della circolazione dei crediti le società partecipate, ma anche i consorti di bonifica, quelli di sviluppo economico e le ATER. Alcuni soggetti hanno già dimostrato la disponibilità ad acquisire i crediti, previo però un confronto già programmato con l'ABI, l'Associazione delle Banche. Riesco Andrea Saulo, TGR Friuli Venezia Giulia. E come avete sentito, questo servizio riguardava le interrogazioni della mattina. In seguito la trattazione degli argomenti a tema sanitario, di cui vi parleremo nelle prossime edizioni del telegiornale e del giornale radio. Siamo ora alla cronaca. Gli infermieri della sala operativa della SORES hanno guidato telefonicamente questa mattina un papà della Bassa Friulana nelle operazioni di gestione post-parto. Si è trattato di un cosiddetto parto frettoloso. La chiamata al 112 è arrivata infatti quando il piccolo ormai stava nascendo e non c'era tempo di raggiungere in maniera autonoma l'ospedale, mentre sul posto arrivavano le ambulanze e un'automedica. Mamma e bambino sono stati portati a Palmanova e stanno entrambi bene. Incidente automoto a Pantianicco, frazione di Meretto di Tomba. L'incidente sarebbe stato causato, pare, dall'attraversamento improvviso della carreggiata da parte di un animale selvatico. Attivati ambulanza e dell'isoccorso con carabinieri e vigili del fuoco. Il ferito è stato portato in volo a Udine in codice giallo. Motociclista ferito anche a Povoletto dopo aver perso il controllo del proprio mezzo. Il ferito è stato portato in ambulanza a Udine. Incidente tra due auto a Pasiano di Pordenone, con una donna ferita e trasferita in volo a Udine, e una dinamica maggiore per lo scontro in A4 tra la Tisana e Porpetto, tra un camion e una vettura. Tre i feriti trasportati a Udine, di cui uno con l'eliambulanza. Oggi prende il via una nuova edizione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni curato dall'Istat. 31.000 le famiglie campione residenti in 68 comuni del Friuli Venezia Giulia coinvolte nel nuovo censimento permanente della popolazione al via da oggi in tutta Italia, con le credenziali che in questi giorni stanno ricevendo per lettera dall'Istat dovranno provvedere a compilare il questionario per via telematica accedendo al portale dell'Istituto di Statistica che cura la rilevazione. C'è tempo fino all'11 dicembre per rispondere online in autonomia e fino al 22 dicembre recandosi nei comuni che sono tenuti a mettere a disposizione un ufficio operatore per fornire assistenza. Chi non avrà ancora compilato il questionario riceverà comunque la visita dei rilevatori incaricati dagli stessi comuni per il recupero delle mancate risposte. Rispondere al censimento, che dal 2018 è permanente, si tiene ogni anno, è un obbligo di legge. Chi non lo fa rischia sanzioni salate, anche fino a 2.000 euro. Le informazioni richieste alle famiglie riguardano al solito il numero dei componenti e le loro condizioni socio-economiche, lavoro, grado di istruzione e anche stato dell'abitazione. Si tratta dell'unica indagine che consente di monitorare in modo dettagliato e puntuale l'andamento demografico della popolazione e le sue caratteristiche. Secondo gli ultimi dati disponibili riferiti al 2021, la regione è scesa sotto la soglia del 1.195.000 abitanti, il 2% in meno rispetto a 10 anni prima. La novità del censimento quest'anno riguarda la seconda indagine. Come sempre verrà condotta in parallelo la prima, ma sarà riservata solo a Trieste e San Giorgio della Richinvelda. Circa altre 1.000 famiglie residenti nei due comuni riceveranno la visita dei rilevatori presso la propria abitazione. Saranno una 60 e saranno muniti di tesserino identificativo e tablet, non questionari cartacei, per acquisire le risposte dei cittadini che, a scanso di dubbi e timori di possibili truffe, potranno verificare col comune la loro identità. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. L'IRES di Udine organizza un corso IFTS per specialisti in gare e appalti pubblici. Sono aperte fino al 16 ottobre le iscrizioni sul sito web dell'IRES. Il corso durerà 800 ore, 400 in aula e 400 in azienda, e partirà a novembre e formerà figure tecniche amministrative. Un incontro di presentazione online si svolgerà mercoledì 11 ottobre alle 16. Per partecipare all'incontro o richiedere maggiori informazioni si può contattare il numero 0432 50 54 0079. Quelle che saranno formate dal corso sono figure particolarmente ricercate dalle aziende regionali a seguito delle novità e modifiche introdotte dal codice degli appalti e dei contratti pubblici appena entrato in vigore. La sezione di Udine dell'AVULS, Associazione di Volontariato per le Unità Locali Sociosanitarie, organizza da domani al 9 novembre un corso di formazione per il volontariato sociosanitario che si svolgerà nei locali della residenza La Quiete. Il corso è aperto a tutti coloro che vogliono prepararsi per effettuare attività di volontariato in ambito sociosanitario attraverso l'inserimento in AVULS. Prevede 11 appuntamenti al martedì e giovedì dalle 18.30 alle 20 e una giornata residenziale presso le Suore del Sacro Cuore di Udine. Le iscrizioni sono possibili fino a domani presso la segreteria dell'associazione. La voce dei giovani per raccontare il Vajont a 60 anni dal disastro è il cuore del nuovo progetto didattico di riattivazione della memoria che vedrà coinvolti gli studenti delle scuole secondarie di primo grado dei comuni di Pordenone, Montereale Valcellina, Clout, Ponte nelle Alpi e Longarone. L'iniziativa, a cura di Cinema Zero, unisce tutte le realtà coinvolte nel ricordo della tragedia del 1963. Il Parco Naturale delle Dolomiti Friulane, l'Ecomuseo di Vajont, la Proloco e il Comune di Longarone, con la collaborazione del Laboratorio Regionale di Educazione Ambientale di ARPA e il finanziamento della Regione. Gli studenti seguiranno un percorso formativo e saranno impegnati in un laboratorio di visual storytelling che li condurrà a creare un portale web interattivo per un lavoro di valorizzazione non solo della storia locale, ma anche di promozione del territorio. E ora gli spettacoli e l'arte, la musica con i violoncelli della Berliner Philharmoniker che ieri sera hanno stregato il Verdi di Gorizia. Dodici violoncellisti è un percorso musicale partito dal barocco tedesco per arrivare al Novecento. 12 violoncellisti che fanno parte di una delle più importanti orchestre del mondo, i Berliner Philharmoniker, ma che ormai da quasi mezzo secolo si esibiscono anche da soli, un modo per migliorare la coesione della sezione diventato un fatto culturale a sé stante. Sono approdati a Gorizia in un concerto evento nel quadro del percorso di avvicinamento alla capitale europea della cultura. Nel programma c'erano brani di tradizione strettamente classica, ma anche molta musica da film o di ascendenza popolare, denominatore comune la straordinaria tecnica di questi musicisti, capaci di usare il loro strumento per cantare le melodie, per fare accompagnamento e anche, se necessario, di sfruttarlo come elemento ritmico. Teatro Verdi di Gorizia pieno e affascinato per 12 fuoriclasse che spesso hanno rappresentato Berlino nel mondo come ambasciatori musicali della loro città. Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. Quando sono quasi le 12.44 siamo al tempo, cielo in prevalenza sereno su tutta la regione, queste le temperature delle 11. A Trieste 22 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 23 gradi e mezzo. A Udine e Pordenone 23 gradi, a Gorizia 23 gradi e mezzo. A Tarvisio 17 gradi, a Piancavallo 17 e mezzo, a Tolmezzo 19, a Forni di Sopra 19 gradi e mezzo. Sul Monte Lussari 17 gradi, sul Monte Zoncolan 18 gradi e mezzo. Sulla costa a Grado 21 gradi. A Lignano 21 e mezzo con temperatura del mare di 22 gradi. Le previsioni dell'ARPA per le prossime ore: cielo in genere sereno o poco nuvoloso con venti di brezza, giornata calda per il periodo, zero termico a 4200 metri. Imperativo vincere per l'Udinese dopo il pareggio affannoso di Genova venerdì sera a Empoli, la missione possibile per la corsa salvezza. Io ne conosco due o tre frati, miei amici. Sono amico di due o tre frati, li faccio venire al campo perché ci devono dare una benedizione, non per vincere le partite. Per vincere le partite bisogna giocare bene. Un punto per resistere in classifica e agli infortuni. Andrea Sottile spiega che Samardžić, alla vigilia della sfida con il Genoa, aveva la febbre alta e durante la rifinitura anche un pestone alla caviglia lo aveva di fatto reso indisponibile per giocare dal primo minuto. Ma contro i rossoblù l'Udinese dimostra di essere preda delle paure alimentate dalla mancanza di una vittoria, e il pareggio su autogol nel recupero questa volta volta è un regalo di un giovane uruguaiano, Maturro Romero, che rimette in equilibrio la bilancia dei risultati dopo la sconfitta in casa con la Fiorentina. Dobbiamo crescere su queste cose qui, di essere più sereni col pallone e giocare a calcio, perché tanto il risultato viene solo attraverso il gioco, quindi però io sono contento, faccio i complimenti alla squadra che non era facile oggi. Venerdì sera a Empoli la missione possibile dell'Udinese contro la terza rivale diretta per la corsa salvezza, dopo i pareggi contro Salernitana e Cagliari, vincere per i friulani diventa l'unico obiettivo per respirare in classifica e allontanare paure e fantasmi di esoneri passati proprio dopo le sfide allo stadio Castellani. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Adesso il basket, esordio di campionato vincente per l'app Udine delle tre squadre regionali. Ora manca solo l'avvio di stagione di Trieste, che affronterà mercoledì Orzinuovi. Con più sofferenza del dovuto, ma l'app inizia il campionato con il piede giusto, senza Clark, reduce dalla gastroenterite, e con Gaspardi in rodaggio dopo aver saltato quasi tutta la preparazione. Vertemati è costretto ad accorciare ulteriormente la rotazione e a forzare quintetti atipici. Nardò, squadra a trazione americana e con gli italiani di complemento, rimane sempre in scia con Parravicini, pareggia quota 20 e mantiene il match in equilibrio con difese ruvide e conservative che mettono in difficoltà anche un maestro come Da Ross. Nella ripresa Udine prova a scappar via con Alibegovic e Caroti, gli ex Cremona indicano la strada e Monaldi, anche lui esperto in promozioni, ha la mano che non trema. Alla fine sarà il migliore dei suoi con 20 punti e 6 su 8 da 3. I bianconeri raggiungono la doppia cifra di vantaggio e toccano addirittura il più 13 con due liberi di Arletti che valgono il 43-56. Poi però pasticciano soprattutto in difesa a cavallo di terzo e quarto periodo, rimettendo in partita i padroni di casa. D'Elia si scuote per il nuovo più 9, 53-62. Monaldi sembra chiuderla con un'altra bomba che vale il più 13 a 5 minuti dalla fine. I pugliesi però reagiscono e, complice un attacco friulano che non produce più tiri di qualità, si ritrovano inaspettatamente in partita a un minuto dalla fine, addirittura a meno 3 a 40 secondi dalla fine, con un canestro al solito Parravicini. E ancora una volta Monaldi però a mettere la firma sulla prima vittoria in campionato, alla Sirena 79-84, con Udine che rispetta il favore del pronostico come tutte le altre big del girone rosso. Mercoledì tocca a Trieste rispondere nel sulla carta agevole recupero contro Orzinuovi. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. La vela, continuano a Trieste gli eventi in vista della Barcolana. La regata, edizione numero 55, è in programma domenica. La velista triestina Francesca Klapcic ha parlato di questo evento internazionale stamattina a Buongiorno Regione. Trieste a vele spiegate verso la Barcolana 55, un'edizione innovativa e al contempo popolare, anche quest'anno ricca di eventi non solo sportivi che culmineranno nella grande regata di domenica, racconta la velista Francesca Klapcic, ambasciatrice della manifestazione. Come tutti gli anni la Barcolana è un evento non solo per i velisti ma è un evento per la città, si cerca in tutti i modi di riuscire ad avere un po' di eventi per tutti e tra i più importanti sicuramente la Barcolana Rewind con la storia di Paolo Rizzi, il Sea Summit e poi le attività in mare, dal parasailing all'evento Women in Sailing fino ad arrivare alla Barcolana che ovviamente collega tutta la settimana fino ad arrivare alla domenica. I team favoriti per questa edizione? Ma Arca sicuramente tra i favoriti, lo era già nella scorsa edizione e quest'anno ancora di più, insomma, si è visto anche ieri dopo la vittoria al trofeo Bernetti, ovviamente una performance di alto livello, e ci sarà Shockwave, 90 piedi, che in certe condizioni può magari dare del filo da torcere e poi vedremo, dipende un po' dalle condizioni meteo ovviamente, sperando che il tempo e il vento sia favorevole. Dalla Barcolana al mondo, Klapcic lo scorso giugno è stata la prima velista italiana ad aggiudicarsi insieme al team 11th Hour Racing la Ocean Race, la gara di vela intorno al mondo che si tiene ogni 3 anni. È stato un sogno riuscire a essere prima italiana a vincere un giro del mondo a tappe e ovviamente è sempre importante pensare di essere la prima ma non l'ultima, no? Quindi ovviamente l'obiettivo è quello di avere sempre più italiani che partecipano a regate di livello internazionale così importanti e continuare ad avere una tradizione di vittorie possibilmente anche nelle prossime edizioni. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Un titolo mondiale nel doppio femminile Under 19, un argento nel 4 di coppia Senior Mix e un bronzo nel doppio Senior Mix. Il risultato degli atleti triestini, tutti tesserati Saturnia, ai mondiali di Beach Sprint di Barletta. Il titolo iridato di Maria Vittoria Crevatin e Vittoria Pastorelli è arrivato alle 7:27 del mattino di oggi, dopo che ieri le finali erano state sospese per le proibitive condizioni del mare. Il 4 di coppia senior misto, formato da Samantha Premer, Lorenzo Gaione, Maria Elena Zerboni, Gustavo Ferrio, timoniere Filippo Weisenfeld, ha sfiorato l'oro vinto poi dagli Stati Uniti. Nel doppio senior mix, Annalisa Cozzarini e Andrea Serafino opposti alla Francia. Alcuni appuntamenti di oggi. Il 2 ottobre del 1943 a Capodistria, 10 agricoltori occupati nella vendemmia, durante un rastrellamento delle truppe tedesche, furono erroneamente scambiati per ribelli e vennero fucilati in località Crosera. La famiglia capodistriana, nell'80° anniversario dell'eccidio, ricorderà le vittime con una santa messa che sarà celebrata oggi alle 18 nella chiesa di San Gerolamo, meglio conosciuta come il Tempio dell'Esule, in via Capodistria a Trieste. La resistenza in Italia e in Europa è il titolo della conferenza che vedrà protagonista lo storico e scrittore Carlo Greppi alle 17:30 al Teatro Miela di Trieste, primo appuntamento della rassegna a cura del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Trieste, Immagine e Storia, conferenze e incontri sulla Public History. L'incontro è ingresso gratuito e organizzato in collaborazione con la Cappella Underground, Bonaventura, Casa del Cinema di Trieste. Seguirà la presentazione e proiezione del film L'ombra del nemico di Ole Christian Madsen, ambientato durante l'occupazione nazista della Danimarca. I circoli culturali Arci Falisca e Ivan Gerbez, in collaborazione con l'associazione culturale Tina Modotti, organizzano una serie di incontri di cultura e politica il lunedì Servolani. Oggi alle 18:30 al circolo Arci di Via dei Soncini a Trieste, Daniele Dovenna, del tavolo per il no ad ogni autonomia differenziata, interverrà sulle proposte di legge tese a modificare l'assetto istituzionale della Repubblica Italiana. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Darà l'ultima notizia di questa edizione meridiana del giornale radio regionale alla parte tecnica Mauro Cumine, Paolo Cassano. In redazione ha collaborato Samantha Gon. Vi ricordiamo il telegiornale alle 14 sul terzo canale televisivo. L'informazione radiofonica torna su queste frequenze alle 15 da Daniele Lettic e Rita Micoli. Grazie per l'ascolto e l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.